Mix di influenze latine, slave e ottomane, la Romania è un paese con una ricca storia alle spalle. Abitata dai Daci, che furono conquistati dai Romani nel II secolo d.C. Dopo la caduta dell'impero questo popolo fu invaso da Goti, Unni, Slavi e Magiari. Il cuore pulsante di questo paese è Bucarest, una capitale che porta con sé le cicatrici di un passato austero ma che oggi risplende di una nuova vitalità. La Transilvania, avvolta ancora da un alone di mistero e fascino gotico, è una terra di castelli turriti che sembrano usciti da un racconto di fate oscure. Il castello di Bran, arroccato su uno sperone roccioso, evoca le leggende di Dracula. Facciamo tappa qui stavolta, proprio nella terra del conte più terrificante di sempre. Abbiamo scelto il pastrami, tipica carne bovina speziata. Le origini del pastrami sono incerte, ma si ritiene che derivi dalla pastirma turca, una carne essiccata e speziata. La preparazione è diffusa in tutto il paese, tanto che ne è diventato un panino molto gradito. Curiosità: questo tipo di preparazione di carne è stata resa popolare nelle gastronomie ebraiche di New York City ed è stato descritto come il panino caratteristico di New York. La Romania non è particolarmente conosciuta per cocktail tradizionali, come in altri paesi europei. Molto diffusa è la zuica, liquore distillato da prugne o ciliegie. Abbiamo trovato un paio di proposte molto rinomate nella capitale che vogliamo proporre, sperando di avere un riscontro positivo da voi commensali. Il conte ci ha invitato per un drink nelle sue dimore. Non possiamo di certo presentarci a mani vuote. Quindi gli portiamo un presente, mettendo 15 euro per uno. Un proverbio locale dice: Dragostea din tei. Amore a prima vista. Grazie per l'ascolto.